Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ci ritroviamo per la seconda volta in questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Come già due giorni fa nella vicenda relativa ad una cartella di Equitalia, è una storia a lieto fine quella che raccontiamo, di cui già il primo tempo avevamo detto qualche settimana fa, e trovate tutto nel nostro archivio sul sito bluradioveneto.it. Parliamo di capelli e di tintura di capelli. Ben trovato Carlo Garofolini, presidente Adico. Ciao Carlo. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, eravamo in debito con chi ci ascolta appunto della conclusione di questa vicenda. Un parrucchiere aveva rovinato la chioma ad una signora con delle tinte, insomma, che non erano state gradite, non era quello che la signora aveva chiesto. Della vicenda avevamo già parlato e, come anticipavo, si è arrivati ad una conclusione positiva, se non altro per il risarcimento. Sì, una conclusione positiva di cui ne avevamo già parlato all'inizio, quando proprio la socia si era rivolta all'Adico perché una parrucchiera gli aveva rovinato la chioma, ma parliamo veramente di una vicenda anche eclatante di cui una persona aveva subito tre trattamenti di decolorazione con tutte le conseguenze dopo che il parrucchiere aveva sbagliato in sede di trattamento proprio tutta la pettinatura ma anche la tintura che aveva chiesto la signora, e che la signora non ha esitato a volersi rivolgere all'Adico infuriata proprio delle conseguenze di cui aveva subito, che un paio di mesi fa ne avevamo parlato e che oggi si può tranquillamente raccontare il felice epilogo. Si è arrivati ad un risarcimento, quindi questo parrucchiere o parrucchiera dovrà risarcire la signora con una somma in denaro. Sì, si è arrivato che ancora prima di arrivare davanti al giudice la controparte ha voluto trovare un accordo per cui la persona in questo caso è stata risarcita con un importo di 2.000 euro, ma che fondamentalmente è una vicenda che anche noi ci ha soddisfatto, perché veramente è stato un caso anche pilota per alcuni aspetti, ma che per l'ennesima volta il fatto che sia una parrucchiera o che sia magari un altro tipo di esercizio commerciale, quando certamente i diritti dei consumatori vengono violati, le conseguenze per chi in questo senso sbaglia purtroppo o no devono essere chiare, e soprattutto il consumatore ha diritto a essere risarcito. Certamente qua non ci può essere garanzia, ma ci sono stati dei danni che questi danni fortunatamente in sede di esecuzione sono stati chiaramente ed ampiamente dettagliati e fotografati, proprio perché durante il processo che la signora ha subito, veramente la bambina che quel giorno l'accompagnava si è, tra virgolette, divertita a riprendere con tante fotografie che certamente non ha lasciato dubbi per nessuno su veramente le conseguenze e i disagi che questa signora ha dovuto subire anche per i mesi successivi in cui la chioma poi ha dovuto ricrescere. Eh sì, è stata una fortuna, insomma, che la bambina avesse il cellulare magari della mamma tra le mani e facesse delle foto che poi sono servite di fatto come prova, un po' come fosse un piccolo caso di tribunale, no? Beh, certo, in questi casi, a parte che comunque la signora è evidente la situazione che aveva subito, però il materiale fotografico è stato un valore aggiunto molto importante, perché a distanza di mesi poi sarebbe stato utile anche portarlo al limite davanti ai giudici proprio come prova, però è vero che in situazioni diverse sarebbe stato importante avere almeno dei testimoni, però certo è che veramente quando si tratta di una pettinatura o una messa in piega che un socio si è lamentato, che fortunatamente non è mai capitato casi di questo genere, ma qua parliamo di un trattamento chimico che una persona ha subito per tre volte con conseguenze bastanti per la chioma e per tutto il processo, insomma, cui la signora si è sottoposta. Fortunatamente poi nei mesi successivi i capelli sono cresciuti e il colore si è potuto riprendere, però dobbiamo considerare che anche in tutta questa vicenda la signora per diversi mesi è andata via con delle bandane che la coprivano, perché veramente non era facilmente comprensibile come era potuto capitare un errore del genere così evidente e poter anche sostenere che insomma il fatto non ci fosse in prima battuta, quando la persona da sola si era rivolta al parrucchiere per trovare una soluzione alternativa. Tanto appunto che la signora, come anticipato, si è dovuta accorciare i capelli, che erano piuttosto lunghi, proprio per almeno sradicare in gran parte il problema che si era verificato. Non ricordo se questo parrucchiere fosse il suo parrucchiere di fiducia o se fosse una presenza occasionale in questo esercizio. Ma questo non lo ricordo neanche io bene, certamente, però la signora del posto e quando è accaduto questo genere, comunque anche la tempestività nel denunciare quanto accaduto, comunque ha aiutato a chiudere bene tutta questa vicenda. Dall'altro siamo anche stati soddisfatti il fatto di come il parrucchiere, anche se in prima battuta, abbia voluto tentare di tenere duro negando un po' quanto fosse accaduto, alla fine si è prodigato anche al parrucchiere per concludere questa vicenda, che purtroppo bisogna dire che poi c'è stato un errore veramente di chi ha operato, e che siamo soddisfatti che insomma chi ha operato l'ha voluto alla fine, anche facendo un po' di forza, riconoscerlo, perché certamente la signora aveva tutte le sue evidenti e buone ragioni per far valere i suoi diritti. Bene che la signora abbia avuto il risarcimento da 2000 euro, bene che chi ha sbagliato abbia ammesso il proprio errore, ci auguriamo che non lo commetta più. Ci ritroviamo con l'Adico la prossima settimana, sempre con altri due argomenti. Ricordiamo il sito associazionedifesaconsumatori.it. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te, Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.